Radio 24 Reportage. Scuola ai tempi del coronavirus, istituti chiusi, insegnanti che si mettono in gioco e sperimentano nuove didattiche per riacciuffare i loro ragazzi, ricreare la comunità. Sono nello studio, nella cucina, diciamolo, di Lorella Carimali, docente di matematica e fisica al Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. Lorella Carimali, qualcuno la ricorderà, qualche anno fa è stata finalista al Global Teacher Prize. Sperimenta le nuove tecnologie anche nella didattica normale a scuola. In questa occasione naturalmente ha ritirato fuori le sue competenze e quindi siamo qua a vedere come funziona una lezione della prof Carimali. Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Ragazzi collegati? Si sono collegati? Sì, sì, sono collegati. Diciamo che io non sono molto tecnologica, sono loro e i miei che ti aiutano in questo compito. Ragazzi, ci siete? Sì. Quanti siete collegati adesso? Adesso siamo in 15. Eccola, è comparsa un'altra faccina. Eccola. Siete contenti di esservi ritrovati con la vostra prof e soprattutto fra di voi per poter, insomma, ricreare in qualche modo questa classe virtuale? Sono contenta, devo soltanto cercare di collegare le cuffie perché c'è mio papà che sta lavorando e quindi non posso fare troppo. Certo, non potete fare troppo, anche tuo padre sta lavorando a casa. Eh sì, tutti. Chissà, per voi adolescenti deve essere dura in questo periodo, reclusi in casa, magari con tutta la famiglia che fa smart working. Vedo che compaiono Luca, Sofia, si stanno scollegando a livello di microfono. Sentiamo anche gli altri, ma voi che cosa ne pensate di questa modalità didattica? Come vi state trovando? No, dicevo che è stracomoda perché intanto non devo alzarmi alle 6:30 per prendere... Non prendo il treno, mi accompagnano in macchina, vabbè, però mi devo alzare presto. E... Giovanni, allora com'è questa didattica a distanza? Questa didattica a distanza, a mio parere, in realtà, cioè proprio a me personalmente piace perché, appunto, quello che ha detto lei per questione di comodità, anche semplicemente, però perché è un modo diverso e in quanto un modo diverso ci dà cose che la didattica tradizionale non ci dà, cioè sono modi di interazione diversi e modi appunto di fare scuola differenti. Quindi stiamo appunto, per esempio adesso stiamo affrontando un argomento per sfortuna, ovviamente è una situazione che ci è capitata, però da cui si può trarre molto perché è una cosa che altrimenti, cioè che prima non era, questa cosa era già emersa anche nei giorni precedenti, è una cosa che non era mai successa. Non è mai successa a nessuna delle generazioni precedenti e quindi secondo me ci può dare qualcosa anche proprio a livello, sia a livello di classe, a livello di comunità più piccola, ma sia a livello generazionale di aver affrontato così da giovani questa cosa, e sia questa appunto, questa emergenza, che averla affrontata con questa didattica differente, sia utilizzata nel modo giusto, quindi per esempio di studiare anche, di collegare le materie di scuola con questa emergenza, con questa emergenza, di farlo in questo modo, a parte appunto di ricrearla con le lezioni a distanza proprio fatte in questo modo, secondo me è la cosa migliore, anche se è complicato, però ci si può sentire, ci si può scrivere e quindi è un po', è comunque come essere vicini da un certo punto di vista, per cui si mantengono un pochino dei benefici, perché il beneficio della scuola in realtà, secondo me, più di tutto quello di andare in classe, di andare a scuola, di spostarsi tutti in un stesso luogo, è quello di stare vicini, è quello di fare comunità, come aveva detto la prof. Quindi se si riesce a farla anche a distanza, ma si riescono a mettere anche questi vantaggi tecnologici, quindi di potersi condividere appunto i dati in diretta, di poter fare ognuno la propria ricerca sul proprio server e di condividerla con il gruppo, secondo me da questo punto di vista è proprio un'opportunità di crescita. Grazie Giovanni. Allora, come funziona, Lorella, una lezione a distanza? Facci vedere come, no, poi diciamo che, come interagisci che con i tuoi non ragazzi. È lezione mia, è lezione nostra, è un momento di apprendimento nostro, perché poi apprendo anch'io da loro. Allora, il compito è questo. Ho dato proprio di vedere come la matematica può aiutare a capire meglio la situazione. e quindi ad avere meno paura. Ad esempio, mentre parlo, vedi che questo mio studente, che qua ha il nickname di San Mosco, ma non si chiama così, fa vedere i materiali su cui stanno lavorando. Ad esempio, questo, il modello SIR di cui si sente tanto parlare, è stato anche sui giornali, è un modello matematico per le epidemie. Quindi loro stanno lavorando, ecco, vedi, questo ad esempio è un lavoro fatto da quelli di quarta che ho girato a loro perché mi sembrava interessante. La matematica nel coronavirus, proprio per anche per questo, far vedere la collaborazione tra le classi. Se Gomez fai andare, lo fai scorrere fino alla fine. Vi facciamo vedere anche la conclusione di queste due, quattro ragazze, per sfatare il mito che le ragazze non sono brave in matematica. Quindi quattro ragazze, vedete, ci sono tutti i dati e loro alla fine hanno scritto questo. Leggendo i dati, come fa la matematica, riusciamo a capire meglio ciò che sta accadendo. Quindi attraverso la matematica con i ragazzi state cercando di capire meglio cosa sta succedendo. Succedendo, la cosa fondamentale è questo: leggere i dati è essenziale per capire quello che sta accadendo senza essere vittime di fake news e pregiudizi, perché è facile sentirsi esperti ripetendo solo ciò che sentiamo in giro senza ricercare le fonti e i dati. Ecco, facciamo parlare un po' i ragazzi. Che gli Parlano loro, no? chiediamo a questi ragazzi? Non siamo in classe, non è un'interrogazione, però. No, ma io ho chiesto loro di fare questo lavoro e di organizzarsi a gruppi, e quindi qualcuno inizia, non lo so, di solito chi inizia, Sofia. Sono semplicemente dei grafici che Ce la fai con mostrano la la crescita dei tecnologia? contagi e poi ci sono delle tabelle che indicano magari i numeri un po' più precisi riguardo la Lombardia e magari quanti tamponi sono stati fatti. E niente, cioè più o meno così fa vedere un po' la crescita esponenziale di questo contagio che abbiamo visto essere molto alta e aumenta sempre di più. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro picco, adesso non lo trovo, quindi. E abbiamo detto che se chiedessimo ai più e anche ai giornalisti, alle giornaliste, cos'è quella E? Andrea D, È il numero di cos'è? Nepero. E cioè? Che vale che E cioè cosa? una costante 2, qualcosa. 7,18. Quindi, se uno non sa questo, non capisce. Non capisce. Lorella, allora, la lezione ovviamente va avanti Magari molto ti a facciamo dare lungo. qualche soluzione, così se ci Sì, sentono i come no? tuoi amici. Se ci sentono, magari diamo qualche suggerimento. Vai. Suggerimento, c'è qualcuno che lo vuole dire? Ma allora, noi avevamo guardato quella che era curva logistica che descrive il crescere e l'espandersi dell'epidemia e abbiamo notato come se quella della Cina sta raggiungendo il suo picco e si sta fermando per poi iniziare a decrescere, quella italiana e in più generale i paesi occidentali appena contagiati è all'inizio della crescita. Quindi diciamo che le chiusure delle scuole e le limitazioni imposte al governo per ora, come dire, vanno bene. A questo punto si dovrebbe chiedere aiuto all'Europa per risollevare l'economia italiana, ma allo stesso tempo l'Europa pretenderebbe, perché l'Europa ha le capacità con la Banca Centrale di dare quella liquidità di cui l'Italia in questo momento necessita, ma allo stesso tempo l'Europa giustamente chiederebbe all'Italia un po' più di serietà, un po' più di coerenza nel modo di comportarsi rispetto alle linee comunitarie, senza più cercare di far vedere che noi siamo i più forti, che ripristinare una sovranità che sembra perduta per alcuni e diciamo di dare veramente una mano, perché siamo uno dei paesi che hanno fondato l'Europa e diciamo che questa cosa ce la stiamo un po' dimenticando, lasciando agli altri uno spazio che non è loro e dovremmo essere noi, ma per riprendere questo spazio si deve essere lì, si deve far vedere che ci si è aperti a un dibattito, a un dialogo e non voler semplicemente imporre la propria idea, ma essere aperti al confronto. Andrea, parleresti altre 2 ore, chiaramente ti sei molto documentato, hai studiato in questa situazione, hai studiato ed hai studiato quello che sta succedendo a livello Hanno studiato matematico, tutti, a perché livello loro sono... scientifico, ma anche a livello economico e quindi la soluzione che proponi è quella di far intervenire l'Europa, come stavi dicendo. Lorella, finisce qua la nostra lezione, la tua invece va Va avanti, grazie avanti perché poi infinite. c'è l'altro compito, perché questo è per quanto riguarda la matematica, per quanto riguarda la fisica, come hanno la domanda è questa: come nel tempo gli scienziati e le scienziate hanno affrontato questa crisi delle certezze? E poi fidatevi dei ragazzi, cioè avete sentito che disamina che hanno fatto. Abbiamo ragazzi in tutte, ragazzi in tutte le scuole, nelle università. Fidatevi, appoggiatevi un po' a loro che vi Questo è possono l'appello dare. con cui concludiamo. Grazie, grazie a Lorella Carimali. Ragazzi, in bocca al lupo per la vostra maturità. Grazie. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.